sarà ver che l'alma un uom si prode valoroso onesta al coraggio la frode ingravo e forza bravo contro chi l'innalzò stella la mano.